luce azzurra come due occhi che mi scrutano intensi, come a sospettare di strani mondi mi hanno portato via tutti i miei pensieri, nuovi vecchi come ieri riportali da me, nuovi vecchi come ieri riportali da me. Scaglia in faccia il tuo sorriso a chi non sa, scaglia in faccia il tuo sorriso a chi non sa che farne, scaglia in faccia il tuo sorriso a chi non sa, scaglia in faccia il tuo sorriso a chi non ne ha bisogno. Continua così questa strana filastrocca che qualcuno ha dedicato a te in modo un po' inconsueto. Io canto d'amore, ma qualcuno mi ha già detto l'amore si canta da sé. Scaglia in faccia il tuo sorriso a chi non sa, scaglia in faccia il tuo sorriso a chi non sa che farne, scaglia in faccia il tuo sorriso a chi non sa, scaglia in faccia il tuo sorriso a chi non ne ha bisogno.